is easy to do. Giovedì 21 novembre, 128esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Oggi commentiamo insieme un episodio di cronaca locale. Domenica 17 all'ippodromo del Visarno di Firenze si è svolta una vera e propria gara ippica, che però è stata curiosamente e, secondo noi, anche vigliaccamente chiamata palio. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio Comunale Eugenio Giani, ex assessore allo sport e alle tradizioni, che si occupa da sempre di calcio storico e che nelle associazioni sportive fiorentine ha una salda radice di consenso. L'organizzazione è dell'associazione Esercizi Storici Fiorentini, che per rilanciarsi hanno pensato di allearsi con i gestori dell'ippodromo del Visarno e dare una mano al mondo delle corse dei cavalli, che è notoriamente in grave crisi. Peccato che nella storia di Firenze un palio equestre non abbia mai avuto riscontro. Per commentare questa triste vicenda abbiamo al telefono Antonio Nardi-Dei, fondatore dell'Italian Horse Protection, l'associazione più autorevole sul tema degli equini, che da anni e anni denuncia le violenze dei pali di tutta Italia. Cosa vuol dire un palio tradizionale a Firenze che non ha questa tradizione? Non vuol dire assolutamente niente. L'ippica è in crisi, ma perché è in crisi? Perché il pubblico si è lentamente accorto che di fatto l'ippica non è altro che lo sfruttamento di un animale. Farlo correre finché è giovanissimo, appena non è più in grado di reggere il ritmo, macellarlo e avanti con un altro. Questo è un utilizzo vero e proprio, uno sfruttamento di un animale che inizia a essere repulsivo per la maggior parte delle persone. Allora cosa si sono inventati? Un palio per tentare così di avvicinare le persone. Tra l'altro c'è una cosa che a me ha fatto molto male. I bambini entrano gratis. Invogliamo i bambini, i nostri figli, ad assistere a spettacoli di sfruttamento dei più deboli. Anche dal punto di vista psicologico, desensibilizzarsi rispetto ad animali che soffrono certo non è un bel messaggio. Esatto. Poi vediamola sotto il profilo dell'animale. Gli animali vengono sfruttati, vengono buttati via come fossero roba vecchia appena non sono più degli atleti. Ci viene detto che nell'ottica del famoso rapporto uomo-cavallo, il binomio, ma come funziona nella realtà? Funziona che il santino impressionista, che non ha mai visto il cavallo, che sale sopra un cavallo qualsiasi, lo riempie di merbate finché non arriva al traguardo, che lo sponsor è semplicemente, in questo caso dei negozi tra l'altro, quelli sì, di vera tradizione, lo sponsor è soltanto qualcuno che paga una sua quota per vedere correre un cavallo, ma il rapporto tra l'essere umano e il cavallo è uguale a zero. Il santino non sa neanche come si chiama di nome, lo sponsor sa come si chiama di nome ma non l'ha mai neanche visto. Sarebbe ridicolo se non fosse che ci sono degli animali che soffrono. Brutto associare una situazione del genere, quindi la sofferenza di animali sfruttati, al bel progetto Taxi Milano 25 di Caterina Bellandi. Questo crea un po' una specie di copertura al contenuto in realtà di violenza e di indifferenza per la condizione degli animali di questa particolare manifestazione. Sicuramente ci sono altri modi per promuovere le attività dei negozi storici fiorentini e ci auguriamo che si cambi idea e non si prosegua su questa strada. Antonio, qual è la vita media di un animale che corre negli ippodromi? 5 anni. E quale sarebbe invece la durata naturale della vita di un cavallo? La vita di un cavallo arriva fino a 40 anni. Non sto a chiederti qual è il tipo di fine che fanno questi cavalli perché sarebbe troppo macabro, comunque penso che non ci sia da aggiungere molto altro, abbiamo perfettamente capito qual è la situazione. Chiunque abbia desiderio di vedere cavalli meravigliosamente liberi che godono della loro libertà, della loro vita in branco e anche delle loro caratteristiche personali valorizzate può farsi un giro all'Italian Horse Protection per prendere appuntamento per una visita guidata. C'è un sito bellissimo www.horseprotection.it. E questa associazione benemerita si trova a Montaione in via del Poggio all'Aglione numero 23. Grazie ad Antonio Nardi-Dei. Grazie Camilla. Per la versione domenicale di mezz'ora di Restiamo Animali, l'appuntamento è per domenica 24 novembre 2013, sarà la 129esima puntata poco dopo le ore 12. Restiamo Animali.